La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 23 secondi in diretta da una Milano piovosissima, nubifragio in corso, umidità, tasso di umidità filippine più o meno. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretto in podcast Oscar Giannino. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Oggi è una giornata con notizie varie e diverse, vi dico subito a che cosa andiamo nel tema, però dico notizie varie e diverse perché i siti regionali aprono in questo momento con, per esempio, Repubblica, con la notizia della bambina morta di 9 anni a Roma di morbillo. Già ci sono polemiche però, perché la notizia è dell'aprile scorso, in realtà è avvenuto nell'aprile scorso, e quindi ci sono già le polemiche, dice, lo tirate fuori adesso per la campagna favorevole ai vaccini, insomma, eccetera eccetera. In Sardegna il primo caso di tetano dopo 30 anni, anche qui un bambino di 10 anni non vaccinato, e va bene, quindi questo è un filone di polemica ben noto in corso nel nostro paese. Però vedete che alla fine, abbassando i tassi di protezione con i bambini, qualche caso di morte si rischia purtroppo. Detto tutto questo, invece monterà, ce ne occuperemo domani mattina con Alessandro Mina, attenti a noi due, quello che già stamattina si capiva, e cioè che l'Italia ha comunicato formalmente all'Unione Europea che la situazione degli arrivi in questi giorni, siamo al ritmo di 12-14 mila arrivi ogni 48 ore dei profughi, è insostenibile, e quindi abbiamo comunicato formalmente all'Unione Europea l'ipotesi di chiudere i porti alle navi delle ONG di soccorso straniere. Vedrete gli approfondimenti sui giornali, comunque domani ci sarà vastissimo spazio dedicato a questo. Noi per gli impegni europei non potremmo e non possiamo, allo stato attuale, tranne diverse intese con l'Unione Europea, chiudere l'accesso ai porti italiani alle navi del dispositivo ufficiale delle missioni Sofia e Triton. Cosa diversa è, e quindi lo possiamo fare, impedire l'approdo e lo sbarco di profughi raccolti dalle ONG e dalle navi non battenti bandiera italiana dell'ONG. Si parla di questa ipotesi, anche qui sui social sono subito infuocate le polemiche, perché c'è chi dice, ma allora l'ipotesi di chiudere i porti c'è sempre stata, perché la tirate fuori adesso? Naturalmente la risposta è perché gli arrivi sono diventati insostenibili, però ovviamente c'era chi lo chiedeva da tempo e veniva additato come un nemico della realtà, cioè come se questa cosa non fosse possibile, e anche questo lo troverete sui giornali. La terza notizia del giorno, per rilievo più o meno in tutti i siti, è quella delle parole del Papa stamattina, molto interessante a dire la verità. Il Papa, c'era una delegazione alla CIS di cui inizia il congresso nazionale, è iniziato, e ha colto questa occasione per toccare due punti fondamentalmente. Ha considerato uno scandalo le pensioni d'oro, quelle bassissime, quindi ha chiesto un riequilibrio. E ha anche aggiunto, stolto far lavorare così a lungo gli anziani. E questo è un punto aperto, perché la staffetta generazionale, cioè mandiamo in pensione gli italiani prima di quanto non siano i tetti innalzati per la pensionabilità dalla riforma Fornero, significa più occupati giovanili, perché questo dibattito nel mondo e in Italia è aperto da decenni, non ci sono le evidenze incontrastate del fatto che funzioni davvero così, cioè gli occupati non sono una torta fissa in cui basta levare una fetta a qualcuno in termini di corte anagrafica e lo si gira a qualcun altro più giovane. In Italia in particolare non funziona così, perché comunque le regole del mercato del lavoro, l'alto cuneo fiscale, skills, le competenze purtroppo inadeguate data dalla scuola dell'università, svantaggiano oramai da molti anni gli occupati giovanili, e dopo la riforma Fornero di più, ma non perché le imprese assumano gli over 50 anni, perché quelli sono rimasti occupati con il vecchio rapporto, l'articolo 18 non modificato come sapete dal Jobs Act, perché riguarda i nuovi contratti, e con quindi la prospettiva di una pensione poi più retributiva che contributiva. E invece i giovani lo hanno perso, il lavoro part time che avevano, quindi ecco. Però anche questo lo troverete sui giornali di domani. A oggi invece il tema della trasmissione è una apparente, vedremo se è così o no, coda del voto amministrativo che riguarda la Lombardia essenzialmente. Perché che cosa è avvenuto ieri? Che i sindaci del PD dei maggiori centri della Lombardia ieri hanno affermato, quindi hanno preso una posizione formale in relazione al referendum consultivo a cui tiene molto il presidente della Lombardia Maroni e che è convocato in Lombardia per il 22 ottobre. Di che cosa si tratta? Perché immagino che gli ascoltatori in Lombardia diranno: ma perché devi parlare solo di una cosa lombardia? Attenzione, è un tema che ha una portata nazionale, perché è una risposta che viene da un pezzo di nord non trascurabile al rigetto che gli italiani hanno fatto nel 4 dicembre dell'anno scorso della proposta di riforma costituzionale avanzata dal governo Renzi. Quella proposta proponeva di riequilibrare i poteri tra le regioni e il centro in alcuni settori a favore del centro con una clausola di supremazia, settori come le infrastrutture strategiche di trasporto, quelle energetiche. C'era un capitolo che riguardava le politiche attive del lavoro, che oggi sono di competenza della regione, e invece il pilastro fondamentale per far funzionare la nuova agenzia del lavoro, la parte che manca del Jobs Act purtroppo e che spiega anche perché poi i giovani sono più disoccupati, partecipano meno al mercato del lavoro degli anziani. Vi ricordate che nel referendum si proponeva di riaccentrare queste competenze, non tutte, ma queste sì. Il referendum è stato rigettato dagli italiani e a quel punto parte una iniziativa di segno opposto. Quale iniziativa è? Ecco, questa del referendum lombardo propone, sia pure in maniera consultiva, ai lombardi: diteci se siete favorevoli o meno a chiedere al governo nazionale un rafforzamento dell'autonomia della regione Lombardia. Non c'è nessun secessionismo, perché la proposta nasce esplicitamente in ottemperanza e in un tentativo di dare attuazione a quanto prevede l'articolo 116 della Costituzione attuale, che in effetti consente, apre alla possibilità che regioni chiedano in certe condizioni di rafforzare le proprie aree di autonomia rispetto a quelle ordinarie di competenza propria e concorrente del vecchio testo costituzionale, quello che è rimasto in vigore visto che è stata bocciata la riforma del 4 dicembre, e che però aprano di conseguenza una trattativa con il governo centrale su questo punto. Ecco, il referendum è su questa cosa qui. La novità è che rispetto ai proponenti, essenzialmente l'idea era della Lega, poi naturalmente del centrodestra, maggioranza in Lombardia, alla regione, ieri si è aggiunta questa pronuncia formale e importante dei sindaci del PD in Lombardia, che dicono: noi formeremo un comitato per il sì. Crediamo che sia giusto condividere questa battaglia. E allora si tratta di capire, visto che nel PD si erano levate anche molte voci critiche, a dire la verità alcuni esponenti, per esempio il sindaco di Milano Sala o il sindaco di Bergamo Gori, di cui si parla come candidato del PD, si parla solo, ma insomma come possibile candidato del PD per contendere la guida della regione Lombardia a Maroni, se Maroni sarà candidato al centrodestra, avevano già adombrato questa ipotesi prima del voto amministrativo. Fatto sta che pochi giorni dopo il voto amministrativo, che per la sinistra non è andato bene in Lombardia, ecco che viene questa pronuncia formale. E allora la domanda diventa, ed è una domanda nazionale, perché se passasse questo referendum, sia pur consultivo, è chiaro che c'è, è un segnale nuovo e diverso nei rapporti tra regioni e governo. La questione è una condivisione vera, è una condivisione tattica? Non spetta a me giudicare, ma a me è sembrato molto interessante, perché la riapertura di una questione settentrionale, seppur in adesione a quello che dice la Costituzione, quindi senza nessuna tentazione secessionista, è di sicuro un segno politico nuovo, che ci troveremo comunque aperto, evidentemente, anche a quel punto alle politiche, perché a questo punto è facile immaginare, o almeno è logico immaginare, concludo la mia introduzione, che se sia la destra sia il PD dicono sì al referendum in Lombardia, diventa la proposta di una regione che in termini di PIL, in termini di export eccetera eccetera, è una proposta di un grande peso nel dibattito pubblico italiano, sia pur a oggi nessuno potrebbe dire su quali materie e in che maniera specifica. Allora, abbiamo due ospiti per tentare di capire i due punti di vista diversi su questa questione che si è aperta. Innanzitutto il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, che ringrazio per essere reso disponibile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera. E Fabio Rolfi, che è il vice capogruppo della Lega Nord in Regione Lombardia. Buon pomeriggio e grazie anche a lei, Rolfi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, sindaco, ci spiega la presa di posizione di ieri? È una condivisione vera? È tattica? Come nasce? Sembrava ci fossero dei dubbi nel vostro campo, e invece? Ma guardi, innanzitutto non nasce adesso. Lei deve sapere che ormai 3-4 mesi fa Giorgio Gori, che lei ha citato, ha portato a nome di tutti i sindaci del PD dei capoluoghi della città della Lombardia una lettera al presidente Maroni chiedendo di aprire una trattativa con il governo per quello che si chiama regionalismo differenziato, come lei citava, ciò che già è previsto nell'articolo 116 della Costituzione. Quindi era preesistente. Era preesistente, ma aggiungo, io non credo, anzi, non solo non è in contraddizione con il referendum del 4 dicembre, io votai sì convintamente, ma lei ricorderà bene che già nella bozza, nella testo di riforma del 4 dicembre, quella ahimè bocciata dagli italiani, in realtà su alcune materie lo Stato giocava appunto quella che era la causa di supremazia, la possibilità quindi di avere competenza esclusiva, ma su altre ampliava la possibilità per le regioni di avere competenza esclusiva. Sì, sì, verissimo. Il tema in sostanza è quello di trovare un modo, si provammo con il referendum sulla riforma costituzionale, ma trovare un modo per evitare i tanti contenziosi esistenti su quelle che sono le materie concorrenti tra Stato e Regione. Questo è un punto tuttora, nonostante l'esito del referendum nazionale, è un punto altro che assolutamente fondamentale. È diventato uno dei punti dolenti del rapporto centro-periferia, perché in effetti il titolo quinto della Costituzione, che fu adottato anni fa a strettissima maggioranza, ha provocato un'esplosione di contenzioso alla Corte Costituzionale senza precedenti. Non c'è alcun dubbio, e spesso e volentieri in quei contenziosi ci rimangono i mezzi comuni, certo. Perché questo poi è l'altro punto non banale. Ma lei ha toccato un tema che appunto stavo per citare. Il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato, è un tema del centro-sinistra. La riforma del titolo quinto del 2001 fu fatta dal centro-sinistra e ha poi, abbiamo visto, ha certamente dato degli spunti positivi, dall'altra parte però ha creato contenziosi che vanno risolti. Quindi nel merito il tema di avere un regionalismo differenziato in materia di esclusiva competenza regionale è un tema che condividiamo da tempo e che anzi da tempo sottoponiamo. Il punto vero sul quale continuiamo ad avere una posizione molto coerente è che non serve un referendum, non serviva un referendum per farlo, cioè far spendere 46 milioni di euro ai cittadini lombardi per una consultazione che è consultiva, il cui esito con la vittoria del sì sarà quello di aprire un tavolo negoziale con lo Stato sulla base dell'articolo 116, lo si poteva fare con una semplice delibera di giunta o di consiglio regionale. Sì, come però ha fatto l'Emilia Romagna. Non sfuggerà neanche a lei che se c'è un voto eclatantemente a maggioranza della popolazione c'è una forza, un peso diverso. A maggior ragione, io sono mi piace sfugge. Anche l'idea che sia bipartisan la cosa. No, quindi. Certo. No, ma no, guardi, non mi sfugge. Dico però che attualmente è già aperto un tavolo tra il governo e la regione Emilia Romagna, e la regione Emilia Romagna ha fatto una delibera di giunta di consiglio, infatti, non ha fatto un referendum. Fa benissimo aggiungerlo, perché questo dà ulteriormente la dimensione di una questione settentrionale. Io mi auguro che la stessa cosa facciano le regioni del sud, a dire la verità, perché non è che c'è un problema solo del nord, c'è un problema di gap che si è aperto clamorosamente in questi anni di crisi e di specifiche vocazioni e di specifici problemi che sono proprio dei territori. Qui per esempio a Asso Lombarda, due settimane fa, quando c'è stato l'insediamento del nuovo presidente della territoriale più grande d'Italia in Confindustria, il nuovo presidente Bonomi ha proprio picchiato su questo e ha detto: non si tratta di dividerci, ma si tratta di ciascuno di concentrarci sugli specifici problemi in maniera tale che poi ciascuno possa adempiere al meglio anche alle funzioni di cooperazione solidale, ma altrimenti non risolviamo né i problemi del nord né i problemi del sud. Allora, poi secondo giro dopo l'interruzione le chiedo in concreto, secondo voi, quali sono i punti più concreti in cui poi passerete dopo alla trattativa tra maggioranza e opposizione della Regione Lombardia per portare al tavolo del governo, ma intanto chiedo un giudizio politico, come l'ho chiesto al sindaco di Mantova, al vice capogruppo della Lega Nord in Regione Lombardia Fabio Rolfi. Come vedete questo sviluppo precedente anche al voto amministrativo, ma che da ieri è formale e formalmente ribadito, del sì del PD al referendum in Lombardia per l'autonomia rafforzata, Rolfi? Ma io ho tutti i contributi che vanno nella direzione di una discussione serena nel merito, quindi in favore del sì all'autonomia al referendum da qualsiasi parte provengono sono positivi. Per la verità, ricordo alcuni passaggi. Il primo è che il referendum è reso possibile da una votazione a maggioranza qualificata, consiglio regionale. Certo. Non era sufficiente il centrodestra, è stato il voto favorevole, si è seguito anche dal Movimento 5 Stelle, per cui l'arco costituzionale con l'adesione di ieri dei sindaci dei capoluoghi lombardi del PD dovrebbe essere completo. E quindi finalmente sembrerebbe che tutti i lombardi possono votare tranquillamente comportandosi da lombardi nel merito a questo referendum. Secondo, va benissimo l'iniziativa di Gori, non voglio buttarli in polemica, ci mancherebbe altro, però è facile ricercare nelle agenzie stampa e anche dichiarazioni in segno opposto, ha fatto lo stesso Gori soltanto qualche mese fa, quando dipingeva questo referendum come una bufala. Ben venga se oggi comunque si predilige il merito della questione anziché altre valutazioni, e quindi ben venga qualsiasi indicazione favorevole nel sì sulla questione, che è prettamente di forza politica. Emilia Romagna ha fatto una delibera e ha attivato un tavolo, va bene, questo tavolo ha prodotto risultati. Io devo ricordare che di tavoli a Roma ce ne sono tantissimi, che tanti anni fa anche la Regione Lombardia ha tentato ben in due occasioni, peraltro avendo la stessa coalizione politica tra Roma e la Lombardia, almeno in un caso che io ricordi, di attivare le procedure previste dalla Costituzione vigente sul federalismo differenziato senza ottenere risposte concrete. Perché il problema è questo, è quello di smuovere l'inamovibile forza centralista che impedisce qualsiasi concessione di autonomia vera, che significa anche trattenimento di risorse, perché la partita poi è questa, non è soltanto gestire qualche competenza in più, l'istruzione, la gestione dei beni culturali o quello che volete voi tra quelle previste dal 117, ma anche la cioè far salire la quota sul totale del gettito che rimane poi di competenza gestita, il trattenimento delle risorse necessarie per gestire questa competenza aggiuntiva, quindi recuperare una parte di quel residuo fiscale che ammonta ormai a più di 54 miliardi dati MEF all'anno, che Regione Lombardia regala allo Stato. E questo è il tema vero che ha reso sempre molto difficile qualsiasi tentativo sto fatto porre allora, il tema dell'autonomia. Dopo il minuto dedicato al traffico, ricominciamo con il sindaco di Mantova, proprio da questo punto centrale. C'è anche per il PD il punto di una quota aggiuntiva di risorse del gettito fiscale dei lombardi, degli emiliano-romagnoli, delle altre regioni del nord, che deve rimanere, che giustifica a quel punto l'esercizio di competenze aggiuntive, oppure no? E in che forma, in che proporzione? Tra un minuto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. La questione è questo punto aggiuntivo, ma che diventerà significativo nel tempo. Ottobre potrebbe vedrà un referendum, sia pur solo consultivo, in cui tutte le grandi forze politiche, il centrodestra, i 5 Stelle avevano votato in Consiglio regionale lombardo, il PD è favorevole, chiedere formalmente al governo l'apertura della trattativa per un'autonomia rafforzata. Il punto però sollevato dal nostro ospite della Lega è quello, sì, compresa però una parte di maggior autonomia, una quota maggiore del gettito pagato dai cittadini del territorio deve restare a quel punto qui sul territorio, e anche perché in assenza di quello come si fa a gestire competenze in più che chiediamo. Che dice il sindaco di Mantova su questo? Cosa innanzitutto? Il sindaco Gori, che non ha bisogno di essere difeso dal sottoscritto, ma il sindaco Gori ha parlato di bufale, e così come l'ho fatto io e molti altri sindaci, quando Maroni ha detto che il referendum aveva a che fare con il residuo fiscale, ossia con quelle risorse che oggi sono risorse per le materie che di competenza dello Stato su tutto il territorio nazionale, cui la Lombardia partecipa certamente in misura importante. Quella è una bufala, perché il referendum pone ai lombardi un quesito diverso, non è un quesito sul residuo fiscale ma è sulle competenze, e dice: volete voi lombardi che la Regione Lombardia apra un tavolo previsto dall'articolo 106 della Costituzione per avere più competenze autonome esclusive della Regione stessa? Punto. Questo è quello che chiede il referendum, non parla di risorse, parla di questo. No, ma su questo lei ha ragione, perché è un fatto. La domanda diventa: se uno chiede le competenze ha bisogno anche di risorse aggiuntive o no? Benissimo, perfetto. Dopodiché non si può dire, siccome l'abbiamo già vista una campagna elettorale di Maroni in Lombardia 5 anni fa, i manifesti 5 anni fa di Maroni erano: con me rimarranno in Lombardia il 75% delle tasse lombardi. Evidentemente non è successo, era una bufala, e lo sarebbe ancora, perché significherebbe che lo Stato dichiari bancarotta, ok? Quindi questo è assolutamente impossibile, bisogna evitare di raccontare delle balle. Certo è che si chiedono più competenze e su quelle competenze si chiedono anche le risorse, ma questo passa attraverso un tavolo negoziale. Il mio interlocutore della Lega diceva: i tavoli se ne sono visti tanti, non ha mai prodotto nulla. Gli faccio notare che la vittoria del sì produrrà la formale richiesta di apertura di un tavolo, certo. non scatta nessun automatismo. Quindi diciamo, quel tavolo che tanto non piace, a quel tavolo ci si deve sedere, perché sennò è inutile chiedere sulla base del dettato costituzionale più competenze per la regione. Io ripeto, sono d'accordo sul fatto che la regione abbia alcune competenze esclusive e che si risolva il tema delle materie concorrenti che crea contenziosi. Ad esempio penso ad alcuni temi quali l'ambiente. Nella mia città, Mantova, da tanti anni è un'area, il polo industriale è area di sito di interesse nazionale, le bonifiche sono, diciamo, se non ferme al palo, quasi. E quindi io credo ad esempio che su questo tema sarebbe più facile riuscire a sbloccarle se la Regione Lombardia avesse competenze in questo e naturalmente anche delle risorse per giocarle, ma questo passa attraverso un confronto col governo che già si è dichiarato disponibile. Quando noi abbiamo detto non c'è bisogno di spendere 46 milioni per il referendum, è perché già il governo aveva dichiarato la disponibilità, come sta facendo da alcuni mesi con la Regione Emilia-Romagna. Come lei sa, sono questioni complicate, non basta qualche slogan per risolvere. No, le bonifiche poi sono una questione talmente pluridecennale, dire a lei, ma molti in ascolto non se lo ricordano. Quindi. È così. Allora, se vogliamo fare le persone serie, amministratori seri, è legittimo ed è sacrosanto su alcune materie avere competenze regionali, dobbiamo iniziare a dire quali sono. Io l'ho già detto, ad esempio, quelle, secondo me, ambiente, governo del territorio, possono essere competenze esclusive da parte di Regione Lombardia, ma su questo c'era già la possibilità di aprire un tavolo col governo. Se invece si vuole fare una bandierina elettorale, quella è un'altra questione, ma vuol dire né più né meno si racconta le bufale di 5 anni fa. No, però Palazzi, al netto del fatto che ovviamente io qui faccio meramente il conduttore e ogni parte politica ha piena legittimità ad articolare come meglio crede le polemiche e le proposte, ci mancherebbe, quindi non è questa discussione. Il punto è: una volta che si tenta una convergenza nel voto e lo si chiede, sia pure con comitati che saranno distinti, ovvio che la politica pretende che siano distinti, i vostri rispetto a quelli dei promotori della Lega, ma se ci fosse un'ipotesi di accordo anche preventivo di tutte le forze che poi dicono sì, da portare sul tavolo del governo, si fa un altro passo in più. Mi pare, se io non voglio forzare, mi pare che attualmente siamo ancora distanti, sbaglio, Palazzi? No, guardi, le dico, perché ad esempio il presidente Maroni, visto che da qualche mese ha in mano una nostra lettera chiedendo di aprire questo tavolo col governo, sì, non convoca i sindaci e ci per mettiamo sentire insieme a ragionare su sentiamo quali sono le materie? Benissimo, esatto, io questo volevo dire. Sentiamo Rolfi della Lega che cosa risponde a questo. Che dice Rolfi? Io non capisco questa paura di chiedere ai lombardi di votare. E noi abbiamo chiesto il tema delle risorse, questi 46 che poi sono di meno milioni di costo del referendum. Abbiamo chiesto più una volta al governo di poter abbinare il referendum regionale, che tanto ricordiamolo è esercizio di democrazia. Vede cosa c'è di così spaventoso e preoccupante e sbagliato di chiedere alle persone di votare sul proprio futuro, di abbinarlo con le varie consultazioni elettorali che ci sono state, il referendum sulle trivelle, le varie elezioni amministrative. Sempre risposta negativa. Come sa Roma temessero il fatto che una regione di 10 milioni di abitanti, che è portatrice di oltre il 50% dell'esilo fiscale del nord, poi torneremo al tema delle risorse, perché non è vero quello che dice l'interlocutore, non potesse esprimersi, come se ci fosse grande paura sul peso politico di questo referendum. Tema delle richieste da fare a Roma sulle competenze della trattativa. Ci sarà un confronto prima? Ma tra certo, è evidente che il referendum è consultivo, l'ho detto lei nella sua corretta introduzione, è evidente che il giorno dopo non saremo più autonomi o non avremo più competenze su quale esercitare il nostro autogoverno, ma è indubbio il peso politico di un referendum di questa portata della più importante regione del paese. È chiaro che se tutti insieme lavoriamo in questa direzione, il giorno dopo questo ci sarà il governo di centrodestra e di centrosinistra. No, che guiderà, certo, il paese. È più difficile dire di no. La richiesta, che ufficialmente poi partirà anche dalla giunta con la concertazione dei sindaci, avrà un peso politico ben differente che la semplice letterina fatta dal presidente di regione. Tant'è che Emilia Romagna, tutto rispetto e la stima che posso avere per gli amministratori emiliano romagnoli, ad oggi non ha portato a caso la competenza in più. Il tema delle risorse, non è vero quando si dice questo referendum non ha a che fare con il residuo fiscale, perché le faccio un esempio. Le province ci hanno chiesto di avocare a noi la competenza sulla gestione dei disabili sensoriali, perché come sa benissimo sono ormai sulla... E la risposta è le risorse, come si fa? Presa la competenza della gestione dei disabili sensoriali a livello scolastico, compreso il trasporto, le risorse che prima davamo alle province per gestirla, anziché trasmettere alle province, le gestiamo noi. Stesso discorso varrà in futuro se, per esempio, ottenemmo l'istruzione scolastica come competenza. Allora, il tempo, ahimè, è finito. Io mi auguro che la convergenza, più è la convergenza sui temi, più questo diventa un tema politico, altrimenti prevale la più legittima istanza di ciascuno di neutralizzare l'altra parte, e questo però è un errore, secondo me, ma io sono un mero conduttore. Tanto grazie ai nostri ospiti, continuate sulla 24, appuntamento come Alessandro.